Il gastronauta di Davide Paolini. Bianco, rosso o verdone, così si potrebbe descrivere l'Italia dei pesti, perché sono tanti, ma si raccolgono proprio in queste tre categorie che poi vedremo durante la trasmissione, ma non tutti ovviamente la pensano così, perché diciamo che c'è molto campanilismo in Italia, specialmente sui piatti, quindi ognuno difende il proprio pesto in maniera davvero molto forte, e c'è invece chi sostiene che il vero pesto è solo e semplicemente quello alla genovese. Allora discuteremo di questo, cari gastronauti e cari radioascoltatori, magari intervenite, diteci la vostra su questo, numero verde 800 24 00 24 oppure messaggi SMS 349 238 6666. Bene, magari anche dove si mangia il miglior pesto, ecco, anche questo è una segnalazione che aspettiamo da voi per fare quasi una gara. Bene, iniziamo però diciamo la trasmissione da forse il fatto più importante del pesto, che è il basilico. E allora andiamo ovviamente a Genova, anzi andiamo a Voltri, e andiamo da un agricoltore, da Sergio Casotti. Buongiorno Casotti. Sì, buongiorno. Dell'agricola Roberto Casotti. Ecco, vuole lei dirci brevemente qual è la tipologia di pesto, la migliore per fare, scusi, di basilico per fare il pesto? Ma diciamo che la semente che utilizziamo noi nella nostra zona appartiene alla categoria del basilico genovese, che poi viene prodotto da varie case sementiere con caratteristiche che sono lievemente diverse da una casa sementiera ad un'altra. Comunque il basilico deve essere, indipendentemente poi da quello che viene utilizzato, comunque sempre di quella qualità, cioè basilico genovese, deve essere piccolo, deve essere chiaro, deve essere un verde smeraldo la pianta, un verde brillante. E una caratteristica della foglia a cucchiaino, che poi è quella che si vuole qua sul mercato genovese per fare il pesto, il vero pesto, il buon pesto. Ecco, qual è il periodo migliore per il basilico? Ma il basilico qua ormai viene prodotto durante tutto l'arco dell'anno, sempre e solamente nelle serre, perché ha bisogno di un microclima particolare. E d'estate, se fosse coltivata a pieno campo, anche se comunque avrebbe il suo ciclo vitale, esposto troppo all'aria, esposto magari nelle giornate di tramontana, un'aria troppo secca, diventerebbe scuro, diventerebbe più duro e di conseguenza più forte e poco gradito. Ecco, quindi tra diciamo foglia piccola e foglia grande c'è una grande differenza sul risultato finale? Tra foglia piccola e foglia grande c'è una grande differenza sul risultato finale, chiaramente, perché il pesto viene più chiaro se la foglia è più piccola, viene più delicato come sapore. Chiaramente però poi c'è differenza anche tra foglie grandi e foglie grandi, nel senso la foglia grande coltivata in serra è comunque più tenera e più morbida, dà comunque un buon risultato, la foglia a pieno campo è un pochettino più forte, un pochettino più robusta, sia come gusto che come consistenza. Bene. Però comunque qua in Liguria anche quella a pieno campo dà comunque degli ottimi risultati, e a differenza magari di coltivazioni che vengono dal Meridione, dove il clima è più secco, dove il clima è più torrido, allora lì comunque la pianta diventa troppo forte, quella coltivata a pieno campo. Bene, io la ringrazio Casotti di questa lezione che ci ha dato sul basilico. Grazie, ripeto, Sergio Casotti dell'azienda agricola Roberto Casotti di Voltri. Sono già arrivati i primi SMS, il pesto con la P maiuscola è solo quello genovese, fatto a Genova, ma non si può vietare il nome a fantastici e più vari sughi fatti pestando in un mortaio, ci dice un signore di Carpi. Bene, io ricordo ancora, numero verde 800 24 00 24. Allora, il pesto unico, il vero grande pesto, è solo quello di Genova? Io rivolgo questa parola, ma è pleonastica, questa domanda, ma è pleonastica, perché la rivolgo a un personaggio che rappresenta veramente il pesto allo genovese. Buongiorno Roberto Panizza. Buongiorno. Roberto Panizza, titolare dell'azienda Il Pesto Rossi, nonché organizzatore del campionato mondiale del pesto al mortaio. Allora, Panizza, il vero pesto è solo quello genovese? Ma diciamo di sì, anche se poi non, insomma, bisogna magari evitare certi integralismi. Ma sicuramente abbiamo notato in questi anni che la parola pesto, siccome dal punto di vista commerciale vende molto, viene applicata a mille salse che mai sono state pestate in un mortaio. Allora questo magari è così, serve un po' a depistare da quello che è invece la tradizione del pesto e del pesto genovese in particolare. Senta Panizza, ci può parlare di questo campionato mondiale? Cos'è di particolare? Quanta gente partecipa? Ma guarda, abbiamo 100 concorrenti che da tutto il mondo si sfidano a Palazzo Ducale nel Salone del Maggior Consiglio a chi fa il miglior pesto genovese. 30 sono i giudici che valutano il lavoro dei concorrenti e alla fine si stabilisce qual è quello che in quel giorno ha fatto il miglior pesto. Ecco, ma i parametri per giudicare un pesto, ecco, vediamo, quali sono i parametri importanti? Ma noi abbiamo stabilito 5 categorie, quindi la manualità, che vanno in scala di importanza, la consistenza della salsa, il colore, e poi soprattutto la rotondità dell'equilibrio degli ingredienti, esattamente, che è la cosa che comunque noi riteniamo essere più importante. Ecco Panizza, rimanga con noi, sentiamo un radioascoltatore, appunto Ludovico dalla provincia di Genova. Buongiorno Ludovico. Buongiorno. Dunque, io ho sentito diverse cose, io sono proprio della zona dove c'è il pesto d'oca, diciamo che il basilico è migliore, però il basilico è tutto buono. Bisogna che sia piccolo, che sia un verde brillante, perché io vedo in giro nei mercati del basilico grosso, verde, con delle foglie che sembrano bietole. E allora è amaro, non può venire un buon pesto. E il secondo segreto è olio di frantoio buono e formaggio buono. Ecco, formaggio, ma quale? Parmigiano e pecorino assieme oppure l'uno o l'altro? No, il discorso è questo. Anticamente ci mettevano il pecorino perché costava poco, perché il parmigiano era molto caro. Oggi con un buon parmigiano viene una squisitezza. C'è chi per abitudine ci mette anche un pizzico di pecorino per darci quella cosa lì. Ma l'origine era perché ci costava poco, perché la cucina ligure è tutta una cucina povera. Il gastronauta. Bianco, rosso, verdone, ho detto prima, tutti i pesti riuniti in questo titolo di questo film bellissimo di Carlo Verdone. E voglio ricordare ancora numero verde 800 24 00 24, difendete i vostri pesti territoriali o diteci dove si mangia il migliore. Sentiamo William dalla provincia di Alessandria. Buongiorno William. Buongiorno. Dunque, innanzitutto non sono un addetto ai lavori, cioè non sono un cuoco. Sono un semplice appassionato di cucina. Bene, meglio. Dunque, io volevo semplicemente dire come io apprezzo e faccio il pesto. Innanzitutto utilizzo il basilico non con la foglia a bolla o a cucchiaino, anzi proprio non lo gradisco. Gradisco il basilico a foglia cresciuta, lanceolata, quando la foglia è bella verde e soda. Poi, esclusivamente battuto a coltello, non nel frullatore o nel mortaio. Aggiungo ovviamente aglio e gerigli di noce, qualche nocciola fresca, pecorino, olio buono, extravergine. Punto. Bene, lei non è un talebano, quindi è un qualcosa di completamente diverso, un devizionista. Sentiamo Panizza cosa ne pensa. Panizza, cosa ne pensa di questa ricetta, di questo pesto, di questo signore della provincia di Alessandria? Ma diciamo che poi tutto è lecito, come dicevamo prima. Sicuramente nelle case, quando non era disponibile il mortaio, anche a Genova si faceva un pesto con la mezzaluna. Ma sicuramente il fatto che comunque il coltello tagli le foglie anziché il mortaio, le schiacci, dà comunque un risultato diverso sul prodotto finale. Poi ripeto, se a questo signore piace mettere le nocciole anziché i pinoli o comunque, va benissimo, però la ricetta del pesto, che è frutto di un'evoluzione durata sicuramente almeno 200 anni, è arrivato a questo punto, insomma c'è un motivo, certo. Si mettono i pinoli piuttosto. Rimanga che ancora con noi Panizza, ricordo 800 24 00 24, sono già arrivati degli sms ancora, ma poi li leggeremo. Ora abbiamo detto bianco, rosso, verdone, giustifichiamo anche questo. Allora, per quanto riguarda il bianco, parliamo di pesto alla modenese. Buongiorno a Mirko Monetti del ristorante Secchia, Concordia sulla Secchia, provincia di Modena. Allora Monetti, esiste un pesto alla modenese, no? Sì, esiste un pertolo modenese che tante volte si confonde con magari il classico pesto per tigelle, perché diciamo che per antonomasia è il pesto di cui si parla, ma il pesto in questione invece è il pesto di salsiccia, che è un pesto che viene fatto con le carni magre, le carni nobili del maiale e una parte di pancia, viene macinato praticamente con una grana bella grossolana, in modo che rimanga bello corposo, il piatto non deve essere una pasta, ma deve essere bello... comunque bello sostanzioso, deve sentire insomma praticamente la carne, come diciamo noi, croccante quando è cotto, che normalmente si fa con 21 grammi di sale per chilo di carne, 21 grammi di pepe, si aggiunge una punta di rosmarino, c'è chi mette un po' di noce moscata, si fa questa macina, si lascia riposare, si mette aglio, l'aglio normalmente si batte all'interno di un canovaccio, si fa passare una punta di vino bianco per aromatizzare il tutto, si fa riposare il tutto per un paio d'ore almeno coperto da uno straccio, e poi si può procedere ai vari condimenti. Da noi, ecco, allora, quindi nel pesto alla modenese il mortaio non viene usato? Assolutamente no. E nel più il lardo, perché mi risultava che fosse il lardo protagonista. Allora, il pesto di lardo invece è il pesto che si batte a mortaio con varie spezie. Ecco. Esatto, questo è un pesto comunque che si utilizza in modo diverso, è un pesto che si fa di sola pancia, quindi è un pesto di pancetta, si batte tutto praticamente a mortaio, assolutamente, in modo che diventi una pasta molto fine, si aggiungono anche qua tutti gli odori che normalmente sono il rosmarino, il sale e il pepe, leggero di pepe perché questo praticamente va in mezzo al pane, e alla fine da noi la fa da padrone il parmigiano reggiano, si mette una buona manciata di parmigiano reggiano e si fa praticamente questa crema che si usa per condire i pani bollenti, praticamente le nostre tigelle, tutti comunque i nostri pani. Ecco, dopo parleremo di Kunze, parleremo di Borlenghi. Grazie a Mirko Monetti del ristorante Secchia. Sentiamo Anna da Milano, una radioascoltatrice. Buongiorno. Sì, pronto. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego, prego, parli. Buongiorno, io sono un salumiere di Milano che ho sempre fatto il pesto per una vita. Sono convinto che il pesto che faccio piccolo è quello a cucchiaino e basta. Non solo piccolo, basilico. Ho capito. Basilico. Bene, grazie. Io avevo Anna da Milano, invece è comparso un sommelier. Benissimo, non c'è problema. Allora, abbiamo parlato di pesto alla modenese, abbiamo sentito che si parla anche di ripieno e io ho con noi Giuliano Monsali, che è direttore del Museo del Borlengo. E quindi, caro Monsali, allora, dentro i borlenghi ci va il pesto alla modenese? Sì, sicuramente sì. Ci va un pesto fatto con lardo, con aglio, rosmarino e sale. Un pesto un po' particolare. Si chiama Kunze questo? Esattamente, viene proprio definita dialettalmente Kunze ed è appunto Kunze condimento, il condimento tipico dei borlenghi che sono un nostro piatto particolare. Senta, ma Kunze significa, cosa significa quindi in dialetto? Condimento, farcitura. Condimento, farcitura. Senta, i borlenghi vengono fatti con farina e acqua? Sì, farina, acqua, è una ricetta un po' particolare, qualcuno aggiunge anche qualche uovo, una pastella molto molto liquida che viene cotta in grandi padelle di rame e ha una consistenza friabile, molto molto sottile, poi appunto dopo la cottura, che è abbastanza lunga, viene cosparso di questa Kunze, di questo condimento, appunto di questo pesto, e con parmigiano reggiano viene mangiato caldo. Ecco, voglio ricordare che questi prodotti hanno confraternite compagnie, esiste la compagnia della Kunze, mentre mi sembra che Panizza faccia parte della confraternita del pesto genovese, che ha depositato un disciplinare per il pesto alla genovese, vero Panizza? Sì, è vero, esiste questa confraternita dagli anni 90 che si prefigge appunto di difendere la tradizione e la cultura del pesto genovese. Questi ultimi anni si è sviluppata molto e ha depositato una sua ricetta, che poi è la ricetta classica che viene utilizzata anche per il campionato del mondo del pesto, che è depositata a Genova in Camera di Commercio, insomma un po' la ricetta di riferimento del pesto genovese. Bene, io ringrazio Roberto Panizza, ringrazio anche Giuliano Monsali e ora andiamo in Sicilia perché esiste un pesto alla trapanese o alla siciliana, perché ora è diventato un pesto alla siciliana, e vorrei ricordare questo, che scartabellando per andare appunto a mettere a punto questa trasmissione ho scoperto che il pesto alla trapanese è una derivazione genovese, perché sembra che sia portato appunto da navi di genovesi in Sicilia, e qui ovviamente ha avuto avuto un cambiamento perché è diventato rosso. Abbiamo detto bianco, rosso e verdone, e questo siciliano, ovviamente i colori della Sicilia e i colori delle spezie sono rossi. Bene, abbiamo con noi Massimo Mantarro, che è lo chef del San Domenico Palace di Taormina. Buongiorno Mantarro. Buongiorno a lei. Allora Mantarro, com'è questo pesto alla siciliana o alla trapanese? Beh, sicuramente il pesto in Sicilia ha tante varianti, ecco. Sicuramente sì. Il pesto alla trapanese è fatto con dei pomodori, delle mandorle, del basilico e poi dell'aglio, ma tantissimo aglio. E olio d'oliva sicuramente, sale e poi del pepe. Lei ha detto che ci sono molte variazioni, quali sì, sono le variazioni? Dipendono sì. Dai componenti oppure c'è qualcosa delle quantità maggiori di questi stessi componenti? No, ci sono altri ingredienti, perché poi trasferendosi in qualche altra parte della Sicilia, tipo nel messinese o nel catanese, si potrebbe aggiungere nel catanese della ricotta fresca e delle melanzane. Poi invece nel messinese il maiorchino, che è un classico formaggio che nasce su quei monti. Ecco, siccome si parla di pesto, viene usato il mortaio per queste diciamo varie così interpretazioni del pesto alla siciliana? Sicuramente sì, il mortaio, però prima di arrivare al mortaio i pomodori vengono fatti con cassè, quindi tagliuzziati a quadrettini piccolini, e poi si procede col mortaio perché si mette il basilico. Ho capito. E senta, qual è quello che va di più? Perché lei ha detto varie variazioni. Cioè lei quale... Io lo faccio con dei pomodori secchi, anziché pomodori freschi, poi mandorle, basilico, sale, olio, pochissimo aglio, perché non a tutti potrebbe piacere. E lo servo con un vitello freddo. Quindi viene, diciamo, diventa rosso, insomma, come pesto. Rosso, certo, deve essere rosso. Ecco, bene, grazie a Massimo Mantarro, appunto dello chef del San Domenico Palace di Taormina. Bene, abbiamo molti sms, alcuni chiedono mortaio di legno o di metallo, io credo assolutamente di legno, oppure perché no anche di marmo, come era un tempo. E poi tanti altri, però abbiamo un radioascoltatore, diamo la precedenza a lui, Andrea da Bari. Buongiorno Andrea. Ciao Davide, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Niente, volevo dire la mia per quello che riguarda praticamente il mio pesto, quello che preparo nel mio ristorante di Torre a Mare, è che ha sostanzialmente gli stessi ingredienti di quello tradizionale, l'unica grande differenza è quello di sostituire al basilico la rucola, siamo in Puglia, quindi la rucola, e viene fuori una cosa gradevolissima che io uso per fare sia i primi, tipo per esempio il tagliolino con le seppioline, i gamberetti e questa sorta di crema di rucola, o anche fare dei secondi, dei filetti di pesce, di spigola, di triglia, con una cucchiaiata di questo pesto nel piatto, ci appoggio su i filetti e poi sopra delle cipolle tagliate grosse a rondelle. Grazie Andrea, perché ci fai venire fame qui, poi non abbiamo niente da mangiare, grazie del tuo intervento. Sentiamo Luigi da Milano, buongiorno Luigi. Buongiorno Paolini. Mi dica. Senta, tutte le volte quando c'è un programma interessante come quello che fa lei, arrivano tanti che dicono dei strafalcioni che non sanno cos'è la cucina, non sanno cos'è il prodotto e non sanno... Luigi, sono i radioascoltatori, molti sono dei radioascoltatori, così degli amanti, dei per dilettanti, carità, quindi non è che si possono imputare a loro delle... anche sapere che c'è, se si fa il pesto alla genovese, si fa il pesto alla genovese. Io sono un cavaliere, nominato cavaliere del pesto alla genovese, sono a Milano e ho un ristorante a Milano di lingua genovese, Carlo Fortina, dove si fa il pesto a mortaio con le foglie piccole e concave sempre e con i pinoli, non con gli strafaccioni. Poi c'è un pesto tipico sardo, Carlo Fortino. Guardi, di questo Carlo Fortino ci collegheremo fra poco con Carlo Forte, ci sarà un famosissimo cuoco di tradizione, Carlo Fortina, che ce lo racconterà. Per quanto riguarda gli strafalcioni, Luigi, purtroppo ci sono molti che intervengono e non è che si possono cassare duramente, lasciamo anche al pubblico di poter intervenire. Grazie Luigi. Il gastronauta. Bianco, rosso, verdone, abbiamo detto, qui tutto il mondo dei pesti italiani. Abbiamo già visto il bianco, abbiamo visto il verde, ora continueremo perché andremo in Sardegna, in Sicilia, in Campania, perché veramente sono tanti quelli che si definiscono pesti, ovviamente tutti quelli che usano il mortaio, ma abbiamo visto che ce ne sono qualcuno che come a Modena viene definito pesto alla modenese, poi in realtà il mortaio in alcuni casi non viene usato. Ma sentiamo, innanzitutto ricordiamo il numero verde 800 24 0024, chi vuole intervenire 349 238 6666 per gli SMS. Sentiamo un altro radioascoltatore, Marco da Milano. Buongiorno Marco. Buongiorno Dario. Davide. Bene. Ciao, per parlare di una scoperta che ho fatto qualche mese fa. Premetto che io sono un grandissimo amante del pesto classico alla genovese, che direi è quasi uno dei miei piatti preferiti, assieme alle bistecche del tuo amico Dario Cecchini. Va bene. No, io sono toscano di origine, che adesso sono trapiantato a Milano. Comunque, questa scoperta che ho fatto è il pesto con l'aglio orsolino. Direi un paio di mesi fa mi è stata ricapitata a casa una piccola cesta di questa foglia, di quest'erba che non conoscevo prima. E devo dire, ho provato a... l'aglio orsolino si presenta semplicemente come una foglia, lunga circa 5-10 centimetri direi, quindi abbastanza grande. Ed ha il sapore molto marcato di aglio. Ecco, ho provato a farlo con fare un pesto di questo aglio orsolino, ed è venuto veramente eccezionale, per cui è stata una scoperta che... Bene, magari ne parleremo con Luigi, il ristoratore, che dice che i nostri radioascoltatori fanno degli strafalcioni, magari ci propongono anche cose nuove. Grazie Marco da Milano, grazie e a presto. Bene, ora continuiamo a girare l'Italia, andiamo in un posto splendido, perché andiamo ad Amalfi, andiamo da Peppe Aversa, chef del ristorante, chef patron del ristorante Il Buco di Sorrento. Buongiorno Peppe. Ciao Davide, buongiorno a te. Allora, bene, grazie. C'è il sole a Sorrento? Bellissima giornata, spero che la condividiamo anche con voi. Beh, un po' meno, stamattina pioveva, però ora si è un po' rimesso. Senti Peppe, esiste un pesto alla amalfitana, vero? Sì, Davide, allora noi dobbiamo fare un po' un salto indietro nel tempo. Il mare, le repubbliche marinare, e quindi lì troviamo dei grandi collegamenti. Però, per esempio, da noi si abbandonano un attimino il basilico, si incomincia ad utilizzare il prezzemolo, si usano le noci, si usa l'aglio che diventa poi l'elemento comune e un profumo di limone che ormai fa parte del nostro DNA. E in più noi abbiamo anche l'aggiunta di un goccio di colatura di alici. Perfetto. Che sai che è praticamente il risultato del vecchio garum romano. Quindi concentrazione aromatica più intensa e grande utilizzo del territorio. Ecco, permettimi di fare così una chiosa sulla colatura. Io invito tutti i nostri radioascoltatori che comprano la colatura di fare molta attenzione, perché di colatura vera ce n'è poca in vendita, e quindi di stare attenti alle imitazioni. Non so se sei d'accordo. E il grande problema è che la colatura ormai è un po' sulla bocca di tutti, ma sai benissimo che la colatura, insomma, come si dicono a Napoli, diceva Totò, è una cosa seria. Insomma. Sì, certo. Bene, grazie Peppe, lo ripeto, ci ha dato anche uno spunto storico, sicuramente delle repubbliche marinare, come io prima avevo detto che è arrivato per mare anche a Trapani, diciamo, l'idea del pesto, quindi sicuramente con questa conferma di Peppe Aversa abbiamo che da Genova il pesto è stato esportato proprio via mare in molte parti, ovviamente alle repubbliche marinare. Bene, sentiamo una radioascoltatrice, Marina dalla Spezia. Buongiorno a tutti, io ho 50 anni e mi ricordo le sorelle di mia nonna che erano centenarie e facevano il pesto soprattutto con la cagliata, che mi sembra che non avete nominato, non col parmigiano assolutamente, perché il formaggio arrivava via mare dalla Sardegna, quindi una grattugiatina di formaggio sardo, la quagliata che in genovese viene detta prescinzea, perché noi che siamo un paese sul mare abbiamo gli olivi e tutte le famiglie avevano una o due pecore e facevano per un po' di lana, e quindi non il parmigiano, era un pesto squisito. E inoltre d'inverno il basilico veniva conservato sotto sale in alcune arbanelle cilindriche di cotto, e queste foglioline sotto sale poi venivano messe nel mortaio per fare il pesto per il minestrone d'inverno. Marina, io la ringrazio per questo cameo stupendo che lei ci ha fatto, con un ritorno al passato proprio straordinario. Grazie, grazie molto di questo suo intervento. Sentiamo Bernardo da Ragusa, un altro radioascoltatore. Buongiorno Bernardo. Sì, pronto, signor Davide. Sì. Sì, io sto trovando dal profondo sud, da Ragusa. Beh, e sono una città splendida che io amo molto, sì, quindi... Sì, grazie, grazie tantissimi. Qualche giorno fa, proprio parlando di pesto, ho fatto una gara, che sono pizzaiolo professionista, presso il castello di Donna Fucata. Sono arrivato al terzo posto e sulla pizza ho messo un pesto siciliano che abbiamo inventato noi in loco, usando il pistacchio di Bronte, olio d'oliva extravergine ragusano, caciocavallo stagionato ragusano. Poi ho messo mortadella e mozzarella sulla pizza. Questo lo usiamo anche sulla pasta, per cui lo chiamiamo pesto siciliano, però è ragusano dei Monti Blei. Diciamo. Bernardo, può rimanere in linea, perché guarda caso abbiamo con noi in collegamento da Bronte una produttrice di pistacchio, Melina Sanfilippo. Buongiorno Melina. Sì, buongiorno a te Davide. Allora, mi vuoi parlare del tuo pesto al pistacchio, come è fatto? Il pesto di pistacchio è semplice, è solo pistacchio. Io uso pistacchio e olio di girasole perché è in odore e in sapore l'olio di girasole, per cui lo rende ancora più adatto a qualsiasi tipo di piatto. Diciamo si abbina benissimo con i formaggi, con il pesce, con la carne. Quindi tu lo fai, poi lo batti al mortaio, cioè lo lavori al mortaio col pestello? Sì, sì. È solo, però io solo pistacchio. Ho capito. Sì. Olio, un po' di pepe e basta, poi per renderlo così si può benissimo abbinare anche ad altri cibi. Pronto? Sì, ti sentiamo, sentiamo benissimo. Si può abbinare ad altri cibi, hai detto, abbiamo capito benissimo. Si sente male la tua voce, però io volevo ricordare, Melina Sanfilippo è titolare dell'azienda agricola appunto che porta il suo nome a Bronto e produce tutta una serie di prodotti straordinari a base di appunto di pistacchio, compreso questo pesto che io ho provato più volte e lo consiglio vivamente. Volevo tornare da Bernardo da Ragusa per un motivo. Grazie Melina, purtroppo si sente male, ma abbiamo capito così la voglia di promuovere il tuo pesto al pistacchio. E volevo dire a Bernardo da Ragusa che mi è arrivato un SMS col quale io sono abbastanza contrario. Mi dicono: ottima la pizza panna e pesto. Ecco, io quando vedo la panna, poi specialmente su una pizza, sono abbastanza perplesso. Bernardo, lei cosa ne pensa? Comunque tante persone piace la panna perché diciamo si usa invece di usare la salsa per avere una pizza bianca, diciamo. Però noi a Ragusa normalmente usiamo il ragusano. Il ragusano, per usare il nostro pesto usiamo il ragusano stagionato, olio d'oliva, cioè la signora credo che ha detto olio di girasole. Noi abbiamo usato il nostro olio d'oliva, sì. DOC di Ragusa, DOP, che è molto leggero, di collina, per cui non dà diciamo pesantezza e non copre diciamo il pistacchio. Bene, grazie Bernardo. Sentiamo un altro radioascoltatore, Marco da Catania. Buongiorno Marco. Buongiorno a voi, intanto complimenti per la splendida trasmissione. Grazie. Ascolti, io ho telefonato perché siccome di pesti, giustamente come dice lei, ce ne sono di tanti colori, io ho sperimentato quest'estate una cosa veramente gradevole, un pesto ai peperoni, che risulta splendido sia dal punto di vista cromatico che dal punto di vista organolettico, una cosa molto semplice da prepararsi in maniera rapidissima. Intanto ci vogliono 4 bei peperoni rossi, mi raccomando rossi. Poi ci vogliono delle mandorle sgusciate, appena appena tostate, il sale, il pepe, il basilico e dolci in fondo un po' di menta. Si prende il tutto e si pesta. Dopodiché si va a condire, chiaramente questo mi sono dimenticato per caso, una cosa fondamentale, l'olio d'oliva. L'olio deve essere olio extravergine d'oliva eccezionale. E poi si va a condire la pasta, soprattutto dei fusilli consiglio io, che permettono appunto a questo pesto di incunearsi tra le varie pieghe. Bene, grazie Marco, abbiamo capito perché si sente anche molto male di questo suo pesto ai peperoni. Grazie, grazie di questa nuova ricetta. Marilina da Roma, buongiorno. Marilina, vi dice buongiorno e complimenti. Grazie. Io vorrei nominare da Veneta un pesto, ovvero ciò che si pesta, che veniva fatto già da secoli attualmente comunque nel Friuli. Ovvero gli uomini dell'alta montagna carnica andavano a vendere a valle le erbe di montagna, ma in cambio non prendevano soldi, raccattavano tutto ciò che a loro regalassero, per cui portando poi alle mogli i vari ingredienti, loro testavano per esempio uva passa, fichi secchi, cioccolato fondente con marmellata, pensi, prezzemolo, buccia grattugiata di limone e sale. Questo pesto veniva messo nella pasta fatta in casa e ha dato vita ai famosi chansons, ovvero certo. poi venivano cotti in acqua bollente e messo addirittura sopra la ricotta affumicata. Se andate in Friuli... Bene, non mancheremo di assaggiare questo piatto. Il gastronauta. Eccoci di nuovo, Bianco Rosso Verdone. Bene, faremo tutto un finale sudista. Andremo in Sardegna, in Calabria e torneremo in Sicilia. Accontenteremo Luigi, il radioascoltatore degli Strafalcione, che ha detto che parlava di pesto Carlo Fortino, e ora sicuramente sapremo da Carlo Forte come si fa. Ma non solo, anche un'altra radioascoltatrice, Lidia da Milano, che dice: ma il pesto con le melanzane? Accontenteremo anche lei. Allora cominciamo da Carlo Forte in Sardegna col nostro amico Secondo Borghero. Buongiorno Secondo. Ciao Davide, ciao. Allora, com'è questo pesto Carlo Fortino? Diciamo subito che a Carlo Forte si parla ligure, e c'è una, così, come posso dire, una cultura molto ligure anche a tavola. Quindi, però c'è un pizzico di Carlo Fortino su questo. Certamente. Dunque, io intanto chiariamo subito i termini. Tutte le altre salse non chiamiamole pesto, chiamiamo il pesto. Bene, per cui d'accordo. Le altre salse sono delle salse di derivazioni dal pesto genovese, però diciamo sono altre cose. Ecco, noi in quest'ottica abbiamo praticamente fatto una salsa che, dove oltre a questa, diciamo, crema verde a base di basilico, io la chiamo crema verde con olio d'oliva, c'è il tonno e poi c'è anche il pomodoro, per cui si fa una sorta, diciamo, di ragù di tonno. E poi a freddo, quando si condisce la pasta, si aggiunge questa salsa verde, che in pratica è fatta con basilico, olio d'oliva e una punta di parmigiano. Con le trofie, quindi? Con le trofie, certamente, perché la pasta è una delle paste che noi facciamo, in quanto avendo questi trascorsi liguri, diciamo, tutto ciò che è ligure da noi è abbastanza comune, diventa. Bene, grazie a Secondo Borghero. Abbiamo sentito appunto Carlo Forte, che ha una sua specialità molto intrigante, perché c'è questa aggiunta di tonno, quindi sempre sul mare, di mare. Bene, ora andiamo anche in Calabria. Andiamo da Franca Daffinà, del locale della locanda Daffinà a Vibo Valentia. Buongiorno Franca. Buongiorno. Ci vuole raccontare invece il pesto alla calabrese? Il pesto alla calabrese, se si può chiamare pesto, chiamiamo la salsa, come si vuol dire. Ecco, viene usato il mortaio o non viene usato? Assolutamente sì. Ecco, allora ci siamo, bene. E allora ci siamo. Noi veramente abbiamo due varietà. Ne facciamo uno con le nostre zucchine, nostre nel senso che utilizziamo solo prodotti del territorio, quindi le contadine ancora riescono a portarci delle cose buonissime. E ne facciamo uno con i broccoli. Quello con le zucchine, molto delicato, viene fatto con delle mandorle che riusciamo a recuperare in Calabria addirittura, anche se non vengono riconosciute ancora, sono ottime e ci permettono appunto di avere questo pesto che è delizioso, e noi lo utilizziamo sia per condire della pasta. Non abbiamo una pasta specifica, però normalmente ci facciamo anche i nostri fusilli corti e qualche volta lo utilizziamo anche per decorare del pesce. Quindi come accostamento con il pesce? Quale pesce di solito? Anche lì noi andiamo sempre sul pesce del territorio, e assolutamente il pesce azzurro. E sia le nostre alici bellissime, o addirittura anche i caponi, che in questo periodo sono eccezionali. Bene, allora è un piatto da mangiare, da richiedere al suo ristorante in questo periodo. Grazie Franca, lo ripeto, locanda Daffinà, Vibo Valentia. Bene, sentiamo un'altra radioascoltatrice, Franca da Biella. Buongiorno Franca. Buongiorno. Senta, io ho 78 anni, sono una cuoca, per modo di dire, cioè mi sono fatta da sola e ho fatto per tanti anni la, chissà cosa pensa Luigi, va bene, ci dica, da mangiare in una casa privata. E ho girato anche molto, so fare il pesto, le ho assaggiate dappertutto, però l'unico pesto è quello alla genovese. Credetemi a me, perché cambia completamente sapore dappertutto, non c'è né blu né giallo né verde né rosso né niente. Senta Franca, ma lei dove l'ha mangiato? Se lo fa lei a casa oppure... No, io me lo faccio a casa adesso, però io l'ho mangiato, quello che ho mangiato più buono di tutti è stato a Spotorno, in una gastronomia che prima era nel viale centrale verso la stazione, subito dopo un passaggio a livello, e poi adesso invece si era, ultimamente si era trasferita, io l'ultima volta che ci sono stata era 3 anni fa. Bene, grazie Franca. L'interrogativo di molti radioascoltatori è se ci vanno anche le patate e i fagiolini. Bene, nel disciplinare, diciamo, quello della confraternita e così anche, diciamo, dei testi base, non ci sono patate o fagiolini, però credo che molti lo aggiungono e non credo che vada a guastare tutto il resto. Il problema è forse tra noci e pinoli, in cui c'è una grande disputa e non è venuta fuori, non è emersa, peccato. Ma ora abbiamo detto che facevamo un giro d'Italia, che tornavamo anche in Sicilia. Andiamo a Pantelleria, perché esiste un famoso pesto che è il pesto pantesco. Buongiorno a Marilena De Santis, titolare dell'azienda agricola Katzen a Pantelleria. Sì, perfetto. Ci dica com'è questo piatto. Il pesto pantesco è un pesto tipico dell'isola di Pantelleria, che viene fatto con il pomodoro, possibilmente pechino, le mandorle, il prezzemolo, il basilico, la menta, l'aglio, tutto diciamo frullato assieme con l'aggiunta dei pinoli e dei capperi di Pantelleria ovviamente. Viene usato normalmente per condire la pasta, lo spaghetto, noi lo usiamo molto sullo spaghetto, però può essere usato qualsiasi tipo di pasta, non è un problema quello. E può essere usato anche per accompagnare un pesce, normalmente le cernie, i saraghi, oppure per fare la bruschetta, la tipica bruschetta sul pane caldo. Quindi diciamo che è multiuso, insomma, questo pesto, sì, diciamo, sì, che può usato. I capperi non sempre, non tutti li mettono, noi a Pantelleria in particolare sì, perché il cappero è un prodotto dell'isola di Pantelleria, però a non tutti piace, quindi può essere un'aggiunta, diciamo, al pesto, che normalmente comunque le base è il pomodoro, le mandorle, il prezzemolo, il basilico, la menta e l'aglio. Quindi la menta anche, eh? La menta... Sì, che dà un sapore un po' particolare al pesto. Bene, grazie a Marilena De Santis, appunto, di Pantelleria. Abbiamo finito questo giro d'Italia, abbiamo visto veramente che di pesti veri o, diciamo, non considerate tali, diciamo, dai puristi, ce ne sono tanti in giro per l'Italia. È chiaro anche che il pesto, forse con la P maiuscola, è uno solo ed è quello genovese, fatto, diciamo, secondo i disciplinari ben precisi, magari, come dicevamo prima, che può essere con l'aggiunta o pinoli oppure noci, e qualcuno aggiunge le patate, qualcun altro aggiunge i fagiolini. Bene, però il pesto rimane quello. Abbiamo visto anche che questo pesto è stato un po' la mamma degli altri pesti, specialmente nelle città di mare, appunto portata dai genovesi. Bene, io abbiamo concluso questo bianco, rosso e verdone, e quindi lascio a voi la risposta, appunto, se ci sono tanti pesti o se ce n'è uno solo. Buon weekend a tutti.